Componimento 176esimo del canzoniere di Francesco Petrarca. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per ulteriori informazioni o per sapere come diventare volontario, visitate il sito LibriVox.org. Per mezzi boschi, inospiti e selvaggi, onde vanno a gran rischio uomini ed arme, vo sicuro io che non può spaventarme altri che il sol ch'ad amor vivo i raggi. E vo cantando, o penser miei non saggi, lei che il ciel non poria lontana farme, chi l'ho negli occhi e veder seco parme donne e donzelle e son abeti e faggi. Parme d'udirla udendo i rami e l'ore, e le frondi e gli augei lagnarsi, e l'acque, mormorando fuggir per l'erba verde. Raro un silenzio, un solitario orrore, d'ombrosa selva mai tanto mi piacque, se non che dal mio sol troppo si perde. Fine del componimento.